Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La storia che sto per raccontare sembra una di quelle fiabe per bambini che dovrebbe cominciare con "C'era una volta tanti anni fa, in un paese lontano lontano". E invece, la storia che sto per raccontare è successa a 5 ore di macchina da casa mia ed è successa a mia moglie. Io mi chiamo Luca, sono un insegnante di scuola superiore, abito in Alpago, che è una conca nelle Dolomiti, in provincia di Belluno. Vivo con mia moglie, Violanda, di passaporto croato, e sono in attesa tra qualche giorno della mia quarta figlia che ho avuto con lei. Sempre in diretta dalle terre di Abruzzo, tra la Puglia, il Piemonte e la Toscana. C'è effettivamente, diciamo, una distribuzione geografica particolare al Vinitaly, ma soprattutto dopo l'atmosfera riscaldata da Pardo e gente nello studio di Radio 24, continuiamo a raccontare storie. Oggi qui a Vinitaly ho incontrato ovviamente un sacco di persone, perché c'è mezzo mondo qua. E ho incontrato, poco fa ho scoperto che non solo le start-up digitali 2 o 3.0 nascono nei garage, ma addirittura le aziende vinicole. È passato Alessio, che mi ha raccontato la storia della sua azienda. Lui produce Bardolino, credo. Sto dicendo una roba sensata, secondo voi? Bardolino. Esiste un vino che si chiama Bardolino? Certo che esiste, si chiama Bardolino, anche un nome, adesso non lo trovo più. Lui ha cominciato a fare vino nel suo garage, fino a che quest'anno il suo vino è stato nominato e si è aggiudicato il premio Miglior Packaging 2014 qui al Vinitaly. E lui stesso mi ha mandato un racconto in cui dice... Concludo con una frase di Angelo, uno scopritore, è quello che mi diede lo scossone. Lui ha detto: se a Vinitaly stravince un vin de garage, allora vuol dire che i miracoli possono accadere anche nel business del vino. Io non so se possono succedere, però a lui è successo. 349-238-6666. Oggi noi raccontiamo la storia di Luca, che in realtà è una saga familiare. Luca ha fatto una cosa che di solito noi non raccontiamo, cioè ha raccontato una storia che non è direttamente la sua, è la storia di sua moglie, però visto che sua moglie gli sta così vicino e gli sta dando il quarto figlio, scusatemi, mentre c'è la diretta c'è gente fuori che bussa sul vetro, chiama Franco Piantanida, è un delirio assoluto già solo a quest'ora del pomeriggio, figuriamoci più tardi. Dicevamo, ma è un tuo amico Franco lui? Ah, ok, lo conosci, perfetto. Franco Piantanida qui ai mixer di fianco a Paolino Corleoni, Paonazzo, per il suo amico che lo chiama. Oh, Franco! Vi dicevo, la storia di Luca è la storia di sua moglie in realtà, e noi di solito raccontiamo le storie in prima persona, però questa è veramente una saga familiare che, come dice lui, accade a pochissimi chilometri da qui e in qualche modo parla di lui, ma parla anche di noi. 349-238-6666, raccontateci da dove viene vostra moglie, anche se arriva veramente dall'appartamento sotto il vostro e l'avete conosciuta quando avevate 15 anni, se arriva dall'altra parte del mondo, se arriva dalla provincia con cui che frequentavate perché ci andavate a scuola, se come l'amico di Franco arrivate da vicino a Franco e venite qui a Vinitaly a incontrarlo. 349-238-6666. Da dove arriva vostra moglie? Sentite un po' da dove arriva la moglie di Luca. La storia che sto per raccontare sembra una di quelle fiabe per bambini che dovrebbe cominciare con "C'era una volta tanti anni fa, in un paese lontano lontano". E invece la storia che sto per raccontare è successa a 5 ore di macchina da casa mia ed è successa a mia moglie. È una di quelle storie in cui c'è una bambina povera e ci sono i mostri della guerra. Nelle fiabe però, nelle fiabe per i bambini, è sempre facile distinguere i buoni dai cattivi. Nelle fiabe in genere sembra sempre che il male sia solo davanti a noi e mai dentro di noi. Mia moglie si chiama Violanda ed è nata in un piccolo paese dell'entroterra croato. Quando uno pensa alla Croazia, in genere gli vengono in mente le isole bagnate dal mare blu e le magnifiche mete turistiche di Dubrovnik e Lussino. Ma la Croazia è anche tanta, tanta pianura e montagna che si perde fino all'Ungheria, fino alla Bosnia, terra di povertà attraversata da tante guerre e da tanti popoli. Sono un istruttore di parapendio e d'estate soprattutto faccio voli turistici, cioè porto la gente a volare in parapendio di posto. E un giorno appunto mi si è presentato questa ragazza bionda, croata, che ha voluto fare un volo con me. Abbiamo fatto il volo insieme, è stato un bel volo e poi da cosa nasce cosa, la sera siamo andati a bere una birra e adesso il volo continua ancora insieme, insomma, dopo 5 anni che ci conosciamo. La nonna di mia moglie è di minoranza etnica italiana. Gente scappata da qui in cerca di terra o di lavoro in seguito ad alluvioni, guerre, disgrazie o semplicemente, come si dice da quelle parti, perché sono andati dietro alla pancia. Mia moglie ha un albero genealogico come una carta geografica. Sua mamma ha il primo bambino da un uomo che viene ammazzato a coltellate quando il figlio ha 6 mesi. Poi partorisce una seconda figlia, frutto di un amore clandestino, da un uomo del paese che però ha già un'altra famiglia, ciò nonostante però riconosce la figlia illegittima. E infine nasce mia moglie e suo padre, mio suocero, decide di accogliere in casa anche gli altri 2 figliastri, frutto di precedenti relazioni. Purtroppo, prima che mia moglie diventi ragazzina, deve fare i conti con le botte, con le stoviglie rotte, con la fame, con tanta fame, e con 2 genitori che quotidianamente si rinfacciano la miseria, la disperazione della situazione in cui vivono, e che diventa sempre peggiore. Poi, la storia di mia moglie segue il corso di quella di tante altre. Arriva la guerra fratricida, che ha insanguinato i Balcani e riempito le campagne di fosse comuni e campi minati. E mia moglie, grazie alle sue origini italiane, arriva a Belluno, profuga di guerra, con 2 sporte di plastica, una per mano, con dentro i pochi vestiti e qualche documento. Trova lavoro, conosce me, che facevo l'istruttore di parapendio, e ci sposiamo. Ho mai conosciuto i miei suoceri, morti prima che io conoscessi mia moglie. Ma non è questa la storia che voglio raccontare. Il papà di mia moglie ha 2 sorelle e la loro madre, la nonna di mia moglie, è costretta a mettere i figli in orfanotrofio perché non riesce a mantenere la famiglia. Io da sempre fatico a ricostruire tutta la parentela di mia moglie, un po' perché a causa della guerra si è sparpagliata in giro per il mondo e un po' perché i rapporti parentali non sono mai abbastanza chiari, per cui ci troviamo ogni tanto a parlare del marito della sorella di mia sorella che ha uno zio e normalmente io annuisco con la testa ma rinuncio a ricostruire i collegamenti. Sapevo però per certo che i miei suoceri erano morti entrambi e che i nonni di mia moglie erano sepolti da tempo, probabilmente a causa dello stesso male. Poi, un giorno, mia moglie si crea un account Facebook e come moltissimi migranti cerca di ricostruire i contatti con i parenti, con gli amici, con i compagni di scuola. E chi ha vissuto l'avventura di conoscere una guerra civile sa che spesso questi tentativi di ricomporre una foto di classe sono destinati a risolversi con molte croci al posto dei volti dei compagni. Però, stavolta, mia moglie contatta tramite il social network una cugina che vive in una città dove la guerra ha segnato per sempre la sua impronta, sulle case martoriate dai colpi di granata e sui visi della gente, solcati da ricordi indicibili. Insomma, sembra proprio che questa lontana cugina abbia lasciato intendere che la nonna di mia moglie non sia morta, ma è ancora viva e che si trova in un ricovero per anziani da oltre 20 anni. Quando lei ha cercato di ricostruire questi brandelli di famiglia, tra l'altro, che sono passati attraverso la guerra dei Balcani, quella del 91-92, è stata veramente una sorpresa, ma veramente come nei film, perché questa nonna era scomparsa da 20 anni. E quindi davvero attraverso una cugina, attraverso un legame di parentela, è riemersa invece questa donna. Le sue figlie, le zie di mia moglie, mai le hanno perdonato di essere state rinchiuse in un orfanotrofio. O forse non sono riuscite a dimenticare qualche altra angheria che noi ignoriamo e così hanno cancellato la memoria della madre, sepolta in un istituto raccontando a tutti, al loro fratello, il papà di mia moglie, alle figlie, ai nipoti, che la nonna era morta. Quando mia moglie scopre che la nonna, che lei non ha mai conosciuto e che credeva sepolta da anni, è ancora viva, contatta l'istituto dove è ricoverata la vecchia. Nel tentativo disperato di ricostruire un brandello di famiglia. E lì il direttore del ricovero ci conferma l'esistenza di un'anziana donna che corrisponde esattamente ai dati anagrafici forniti da mia moglie e che nessuno è mai andato a visitare da oltre 20 anni. Nonostante il nostro secondo figlio abbia solo pochi mesi, organizziamo una spedizione a Petrinia per andare a conoscere la nonna. Ma poco prima di partire riceviamo una telefonata dal responsabile dell'istituto che ci avvisa che la nonna è mancata qualche giorno prima. Stavolta per davvero. Non siamo mai riusciti a conoscere la nonna, né il motivo per cui le figlie l'abbiano sepolta in quell'ospizio di Petrinia, negandone l'esistenza a tutto il resto della famiglia. Però, nelle fiabe per bambini c'è sempre lieto fine. E almeno questa volta, la storia che ho raccontato è proprio come una di quelle fiabe. Mia moglie, la cui famiglia È come una carta geografica segnata dalla miseria, dalla depravazione, dalla guerra e dalla migrazione. È in attesa del mio quarto figlio e io vivo felice al suo fianco. Il titolo della storia di Luca di oggi è Mia moglie Violanda, e nella foto che ci ha mandato non poteva che esserci lei, ovviamente. È un po' lontana perché è praticamente immersa in un mare che più azzurro veramente non si può. Lei ha in braccio un bambino biondo e sembrano chiaramente tutte e due bellissimi. Pronto Luca? Sono qui. Ciao, come stai? Benone, benone. E tu? Io sto bene, me la cavo, insomma. Alvin Italy, sì, Alvin Italy, che per un astemio continua ad essere un'esperienza abbastanza surreale. Luca, non beve vino, Dio neghi anche l'acqua, dicevo. Bravissimo, sai quante volte me l'hanno detto, mio padre disperato da ragazzino temeva che non avrei avuto amici non bevendo neanche una birra, invece siamo qui con accanto Piantanida, Ciocia e Corleoni, e pensa tu. Senti, a parte che Violanda è un nome bellissimo. Mm-hmm. Che sì, significa... una latina un po' particolare in realtà, però sì, è molto bello. Ha un significato? No, Violanda. No, Violanda in latino sì, non è esattamente un nome meraviglioso che deve essere violata, però a me ricorda tanto Yolanda, la figlia del corsaro nero, per cui certo, ha questo certo fascino esotico, insomma. Luca, la notizia è che aspettate un quarto figlio adesso. La notizia è che aspettiamo sì una quarta bambina che dovrebbe nascere non a giorni ma a settimane, insomma. Ah, a maggio, quindi come direbbe il mio amico Peppo, è questione di ore, nel senso che dopo un mese a quel punto potrebbe essere qualsiasi momento. Come sta Violanda? Sta bene? Abbastanza bene, sì, è una gravidanza un po' più difficile delle altre, deve stare ferma, però procede bene, insomma, ci siamo quasi, dai. Quindi fai tutto tu, praticamente? Faccio il mammo, sì, perché adesso con gli altri tre bambini non è proprio esattamente una cosa semplice, per cui devo un pochino sì, darmi da fare anch'io e tenere su, insomma, la casa e tutto il resto. Sei sempre istruttore di parapendio? Sono sempre istruttore di parapendio, ma non pratico più da qualche anno, perché è uno sport che deve essere fatto molto bene, se no si rischia di sbagliare, e quando si sbaglia non certo è una cosa gradevole, per cui ho volato sempre meno finché adesso ho abbandonato, però è una cosa che rimane lì, insomma, spero che quando avremo un pochino di più tempo libero, libertà o forse banalmente la mente più libera, tornerò a volare sicuramente, insomma. Quindi Luca, scusami, ricordami cosa fai adesso per campare te e tutta la famiglia? Io sono un insegnante di scuola superiore, insegno lettere alla scuola alberghiera di Longarone. Tipo Longarone, che tutti ricordano ovviamente per... Purtroppo è famoso esatto, questo volevo dire, che è famoso per quello, però in realtà è un bel paese da visitare, quando ci sono stato comunque ha una sua dignità, ed è un luogo come un altro, a prescindere da quell'aura, no, che esatto, ha ovviamente c'è questa diga che incombe sempre, che impone sul paese, che è sempre un po' tetra, però per esempio c'è una scuola alberghiera famosissima dove insegno, insomma, per cui insomma dai, ricordiamolo per qualcos'altro, insomma. Cosa hai spiegato oggi? Che cosa hai spiegato esattamente? No, oggi non sono andato a scuola. Hai interrogato, no? No, non ho interrogato e non sono neppure andato a scuola oggi, sono qui a casa che aspettavo. E domani vedremo come va, che cosa succede. Ma più o meno a che punto siamo, che so io, siamo a Dante, Petrarca, no, oppure siamo... Oddio, dipende, in quinta per esempio stiamo abbastanza avanti, la maturità ormai è alle porte. Siete a Gadda. Quindi... Ma Gadda sì, è un po' troppo, forse fuori, è un po' fuori dal programma normale. Fino a che scrittori si arriva, scusami, in quinta superiore? Ma fortunatamente non si usa più un metodo cronologico, nel senso che non si parte più, diciamo, dall'inizio del Novecento per arrivare, che ne so, a Buzzatti, che è degli anni 60 o addirittura Calvino, ma si segue un quello che viene definito modulo letterario, che a me piace moltissimo, per cui si procede per esempio per argomenti. Ti faccio scegli tu praticamente? Ma sì, si sceglie in maniera autonoma, però all'interno di qualche parametro. Si cerca naturalmente di rimanere nel Novecento, però in maniera molto più elastica. Noi stiamo facendo un modulo bellissimo che mi piace moltissimo, che segue la lingua del Novecento, per cui partendo dal futurismo ad arrivare al linguaggio degli SMS o agli smileys di Facebook o dei social network, insomma. C'è una linea, guarda, che collega il futurismo all'SMS, insomma. A questo proposito parlavo l'altro giorno per un'intervista che non ha a che fare con questo programma, con un linguista che si chiama Edoardo Lombardi Vallauri, a cui ho proprio chiesto: ma è vero che gli SMS stanno uccidendo la lingua italiana? E lui mi ha detto: no, semplicemente è un altro modo di scrivere. È uno che scrive CMQ poi dice comunque quando parla, quindi semplicemente è un modo per essere quasi bilingue. Senti Luca, però prima di chiudere io vorrei chiederti due cose su questa storia, perché sembra veramente a metà tra Kusturica e Pulp Fiction, no? E Tarantino, perché c'è questo mondo che un pochettino abbiamo conosciuto tramite appunto un po' per colpa della guerra e un po' attraverso una certa letteratura, un certo cinema, e poi c'è questa figura di questa donna che è viva ma nessuno lo sa ed è abbastanza inquietante. Un fantasma, esatto. Intanto, permettimi due appunti. Intanto la città è Petrinja, non Petrinja. Perdonami, anzi. No, tranquillo, anch'io col croato non sono così, non è proprio pane per familiare. Me. La seconda cosa che devo, ho litigato con mia moglie, perché io ti ho detto che sono 5 anni che conosco mia moglie, in realtà ci conosciamo dal 2006, per cui che sono guardi talmente in fretta che a me sembrano soltanto 5. Quindi sono 8 in realtà. No, la storia la storia di quella terra martoriata dalla guerra è proprio legata a doppia mandata con la nostra terra, perché appunto il paese dove è nata mia moglie si chiama Malibanovac, che è un paese di 7 case e 14 abitanti su per giù, però moltissimi hanno cognomi bellunesi o comunque italiani, perché appunto perché lei, come dici tu, ha origini italiane, perché la mamma sua nonna si chiama Skyot, che è un nome bellunese, è un nome proprio delle nostre zone. Dopodiché lei, Luca, naturalmente... Dimmi. Finisci, no, perché devo solo chiudere. No, finisci pure. Lei ha perso queste origini, e lei non parlava neppure l'italiano, però c'è per esempio un paese lì vicino che dove la minoranza etnica bellunese è fortissima e parlano un dialetto che da noi si parlava 100 anni fa, insomma. Luca, io ti ringrazio per la storia che hai condiviso e ti faccio in bocca al lupo per il quarto figlio e soprattutto un bocca al lupo a Violanda, insomma, che è lì che aspetta e deve stare un po' tranquilla. Crepi, speriamo sia di buon auspicio. Grazie ancora, ciao, buona giornata. Grazie. Ciao. Stiamo per chiudere, volevo solo leggere qualche messaggio che è arrivato a proposito di dove arriva mia moglie. Mia moglie viene dalla Bretagna, mia moglie viene dall'Argentina, ci sposiamo a giugno. Mia moglie arriva dal paese confinante al mio, l'ho conosciuta a 6 anni, in prima elementare. Mia moglie arriva da Parigi, ci siamo conosciuti a Dublino alla fermata del bus davanti al Trinity College. È una bella storia, allora raccontacela Lorenzo. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile la puntata di oggi e tutti quelli che sono arrivati qui al Vino Italy, a partire dalle due ragazze che sono fuori, che distribuiscono gadget come fosse veramente mestoli di riso. Grazie a Ciocia e al suo orologio, grazie a Franco Piantanida, grazie a Paolino Corleoni, a Margherita Ina che è d'altra parte. Chi c'è invece a Milano? C'è Rudy? Grazie a Fabio Cantadori, grazie al mister Fabio Cantadori. Grazie a lui, grazie a Luca. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, io sono Chiara, abito a Londra. La storia di domani è la mia e parla del mio anno in Canada quando avevo 17 anni. Questa è la mia storia ed io sono qui.